Vi ringrazio e siete benvenuti, herzlich willkommen, also, anche lei, Grazie. benvenuto, che ci siamo conosciuti qualche mese fa, forse anche Grazie. molto Anche più di un prima, mese fa, con il sì, libro dei bambini. esatto, e così è nata poi la curiosità di leggere questo libro, di questo libro molto interessante, ma anche e soprattutto autobiografico, insomma, una storia per noi è sempre importante come biblioteca provinciale, la memorialistica, l'autobiografia e comunque gli autori del territorio che hanno un legame con il territorio sono per noi importanti e sono soprattutto dei documenti che ci teniamo a tenere e a mettere a disposizione del nostro pubblico e possibilmente di farli conoscere, anche le serate meno frequentate. Perché registriamo il nostro intervento e sul sito viene messo a disposizione del vasto pubblico che poi ascolta e riascolta. Buonasera. Ecco, allora, il titolo lo vedete, Ma una vita non basta. La vita di Mario Rusca è sicuramente una vita molto intensa, interessante, Movimentata. movimentata. E quei pochi minuti che è rimasto con noi, appunto mesi fa, abbiamo assaggiato un po' la varietà di interessi e di avventure che ha avuto, per cui Anche stasera perché sono un po' logorroico io. siamo ancora più curiosi di ascoltarle e anche questo amore che nutre comunque per il nostro territorio, quindi nonostante abbia viaggiato, sia andato in giro, eccetera, alla fine Le qui si radici sta sono qua, bene, mamma, le ecco. radici ho deciso che E sono qua. l'affezione rimane, ecco, legata a questo posto. Mi permetto sempre di segnalare anche altre cose. Domani mattina alle 10:30 avremo un gruppo di lettura ad alta voce. Ci sono delle signore, dei signori che leggono ad alta voce parti di un romanzo che verrà presentato invece la settimana successiva. E questo romanzo è di una signora, Garelli Rossi, di Bressanone. Il titolo è La villa del parco. Quindi insomma domani avremo questo assaggio la mattina alle 10:30. Venerdì invece pomeriggio alle 16:30 avremo la presentazione di un libro di Andrea Bocconi, sempre nell'ambito di un'autobiografia, di una riscoperta del sé, di un raccontare, un narrare le proprie esperienze alle 16:30 con Il monaco di vetro. Questo è il libro che ci presenterà inserito nella cornice dell'autobiografia e della memorialistica. Poi invece la prossima settimana andremo alla riscoperta del Castel Tirolo, sono già tre puntate che facciamo dedicate al Castel Tirolo, il nostro maniero diciamo simbolico, e quindi sarà con noi un archeologo che si chiama Gino Bombonato e ci farà scoprire, come è stato già con Leo Andergassen e la volta scorsa con Paola Bassetti e Andrea Bononi, stavolta sarà con Bombonato che ci spiegherà alcune aspetti archeologici intorno al Castel Tirolo. E infine, come vi avevo già annunciato, ci sarà appunto il 27, la villa del parco di Garelli Rossi. Ma intanto ci godiamo questa serata in compagnia di Mario Rusca, che ringrazio ancora, e grazie a voi della vostra presenza. La biblioteca è tutti i giorni aperta e anche la mattina ne combiniamo delle belle. Ok. Ecco, quindi ne siete tutti invitati. Grazie, Ok, allora prima di tutto ringrazio la signora Trevisan per questa introduzione, grazie mille. Ringrazio voi amici che conosco, quasi tutti, ok? Siamo pochi ma va bene così, non importa, è il valore della persona che conta. Io sono appena ritornato da Roma, dove ho avuto un premio prestigioso proprio per questo libro qui, che ha vinto. E questo mi ha fatto molto piacere, perché io ci ho lavorato un anno intero, notte e giorno. Avevo bisogno di lasciare qualche cosa, avevo bisogno di lasciare un ricordo, perché per chi non lo sapesse ne ho già 82 sulle spalle, quindi non si sa mai, no? E allora uno vuole lasciare un ricordo di se stesso, soprattutto per una vita molto intensa, vissuta in tante parti del mondo, che però mi ha riportato qua perché le mie radici io le sento qua. In poche parole, io sono nato a Genova il 3 marzo del 42, il 3 è il mio numero preferito, il 3 del 3 alle 3 e 3 minuti, pesavo 3,3 kg, 3 anni e 3 mesi più vecchio di mio fratello, il 3 del 3 del 63, Baby Jake Messes. WhatsApp audio. Qui chiamano la Germania, bisogna spegnere il telefono. Tu ti intendi, Renzo, mi aiuti un attimo. Scusate un attimo. Il cane è il fino a mano, forse no. E il 3 del 3 del 63 abbiamo un colonnello qua, penna bianca, era una domenica e io sono andato volontario militare, perché sono andato via di casa, è stata la mia fortuna, è stata la mia fortuna, perché stavo studiando all'università di Parma, avevo fatto il primo anno, avevo dato 3-4 esami, non di più, e per il secondo anno mi servivano 72.000 lire, gli ho chiesto a mio padre, e mi ha detto, si vede che ero ubriaco quella mattina, mangia pane a tradimento. Io me la sono presa così, Eingenagelt in Kopf, mi è rimasto qui, ho preso, sono andato via e sono andato a fare l'emigrante nella Svizzera tedesca, per quello che io parlo al Schwyzerdeutsch, quindi mi dire Schwyzerdeutsch Schwätzen, verstehe ich gar nicht, oder? Muoce quando su vi esce per loro, perché si ne ero. Ecco, questo è... E ho fatto 5 anni in Svizzera e ho iniziato a lavorare ai telai a mano e io non mi vergogno di dirlo, ho fatto per un anno e mezzo la fame. Prendevo 350 franchi svizzeri, ne spendevo 220 per una camera senza neanche il bagno, fuori, ok? Andare a fare la doccia o il bagno alla stazione. Mi sono adeguata a queste cose qua. Con 65 centesimi ratten di franco svizzero, prendevo la Migros, un Pirchemüsli e basta fino al giorno dopo, avere acqua per tacitare lo stomaco. E ho passato i primi 2 anni così. Mi hanno aiutato degli immigranti e io poi dopo mi sono rifatto. Questi 2 immigranti che mi hanno aiutato, ho trovato il loro posto presso la principessa Gina del Liechtenstein, perché conoscevo Adam. Cercavano un maggiordomo e una dama di compagnia, io, loro lavoravano in una fabbrica, la Forma Vitrum, nella Feldstraße di San Gallo, e in questa fabbrica lui di notte, lei di giorno, e quindi da 8 anni sposati non avevano figli. Il giorno che io li ho fatti lavorare nel castello, hanno cominciato a guadagnare bene, a mangiare bene, a vivere insieme, è nata la figlia, che è nata il giorno in cui è morto mio padre, la stessa ora in cui io sono il padrino di questa bambina qua, che adesso c'ha, è nata nel 70. Nel 70, sì, vedete un po' voi, fate i conti adesso. Più di 50. Facciamo, sì, più di 50, esatto. E ecco, queste sono state delle prime peripezie. Poi da lì, a un certo punto, io chiedevo degli aumenti, no? Però mi facevo conoscere come venditore, con dei sotterfugi perché andavo in Sicilia, c'era un cliente che non voleva assolutamente comprare dal mio rappresentante siciliano, e allora io dico, ci penso io. Buongiorno, io vengo di Svizzera, mi vestivo un pochettino con una calata verde, strano, pesante in agosto, in luglio, e questi qui erano 3 fratelli russo pedone, e vieni a sentire come parla questo, e io facevo finta di non ascoltare, il mio rappresentante fuori che andava avanti e indietro, e gli avevo detto stai fuori, e ci penso io, avevo vinto la scommessa, la cena, ok? Però sono andato avanti per degli anni, poi è successa una batosta che non finisce più, questo è un racconto del libro. Quel giorno, dunque, dopo, il mio rappresentante Gaetano Cirito era stato accolto da loro perché avevano le ville vicino a Mondello, le mogli giocavano a canasta insieme, e a questo punto lui è entrato con tutte le sue altre ville che rappresentava, e io rappresentavo solo con lui la forza di ville di San Gallo. Un giorno, verso la fine del nostro rapporto, ho fatto un ordine di 30 milioni di lire, dell'epoca che era tantissimo, e sono lì per terra che sto mettendo a posto i campioni per metterli in regista, arrotolarli bene per andare a vedere il prossimo cliente, perché lui aveva detto voglio essere solo da solo io qui a Palermo. Poi pian piano l'abbiamo abituato che andavamo a vedere anche i fratelli Battaglia, Torre Grossa, insomma altri clienti, e sono lì che sto arrotolando questi campioni, e vedo i pantaloni di Principe di Galles del mio agente, e dico, dai Ino, dammi una mano, dobbiamo andare da Pippo Barone. Nessuna risposta. Era il signor Russo Pelone, lo stesso vestito aveva così. Così. Ma come abbiamo imparato bene in fretta l'italiano, ragazzo? Io Rosso. Mi alzo i piedi, mi deve scusare, le racconto tutto. No, no, no, lei non mi racconta niente, lei lo vede quest'ordine qui. Adesso io quest'ordine qui, queste pagine, 5 pagine, estratto. Batti cuore. Come un cretino a guardarlo lì così da faccia da intelligence service. A meno che, a meno che lei non incominci da subito a parlare come ha parlato per 5 anni. Ma certo, signor, signor Gusto Petone, ho capisciato tutto bene, io vengo, ogni volta vengo a parlare così. E ho salvato il cliente, ho salvato l'ordine, ho salvato tutto, ma questo lo racconto talmente ilare, talmente simpatico, mi sono salvato con una barzelletta praticamente. Ecco, tutto lì. Ed è uno dei po- allora in questo libro voi troverete dei racconti simpatici, comici, dei racconti tragici, dei racconti filosofici, dei racconti medianici, e non sono per ordine di data. Io come scrivevo, magari un aggettivo mi attaccava al prossimo racconto, che magari era di 20 anni dopo o 5 anni prima. Cioè, in qualsiasi punto il libro lo si apra, poi ci sono tante fotografie, i racconti sono brevi, hanno una pagina al massimo di 10 pagine, cioè io penso che non annoino il lettore. Lei l'avrà aperto, avrà guardato qualche racconto, eccetera, quindi se ne può rendere conto. Non l'ho letto tutto. Ma è ovvio, sono 540 pagine. Poi, poi dico una cosa, l'ho fatto con Amazon per forza di cose, perché mi chiedevano 30.000 euro per stampare 1.000 copie. Ma che cosa si vende un libro? Chi lo compra a 70-80 euro? Ma neanche un vocabolario lo compra a quel prezzo. Per cui mi sono informato come fare, come non fare, mi sono fatto aiutare, è andato fuori con Amazon e costa poco, 19-24 centesimi, cioè 20 euro. È un libro che vale la pena per 20 euro. Ci sono tanti miei amici che non potevano comprarlo, allora gliel'ho comprato io per loro, ne ho già venduto. Il colonnello Bordin da solo ne ha venduti 20, ai nostri amici alpini, grazie colonnello. Grazie. E praticamente io adesso qui ne ho portato un po' di copie, chi lo volesse avere lo può prendere per quel prezzo. Okay. Poi sono stato l'inventore della videopoesia, per cui io oggi ho portato soltanto una decina di poesie, ma sono brevi, tanto per avere un'idea che cosa sia la videopoesia. E di una cosa sono molto fiero, perché nel 1970, quando ancora poche persone facevano film, 8 mm, 16 mm, i video di adesso non esistevano ancora, io ho fatto una videopoesia in francese, l'ho mandata al Festival di Cannes, che c'era un festival parallelo per emergenti, e sono arrivato sesto. E da allora mi è venuta la mania, nei miei libri di poesie ci sono sempre le videopoesie. E la poesia, quella che ha vinto a Cannes, l'avevo dedicata a una ragazza che purtroppo era morta in un incidente stradale, della quale ero molto innamorato, volevo sposarla addirittura. Ecco, l'avevo presentata ai miei genitori, le ho fatto 2 fotografie a Merano, si vede la cima muta di sfondo, Crista si chiamava, e quando le ho portato le fotografie che ho sviluppato io, perché volevo diventare fotografo, mi hanno detto che non c'era più, era morto in un incidente con un Austin Healey 3000, che poi dopo in seguito io sono riuscito a comprare da Jochen Rindt, pilota Formula 1, prima che Jochen Rindt si ammazzasse il 5 di settembre a Monza. E quindi ho fatto questa poesia e poi l'ho tradotta in francese, l'ho mandata a testa del campo. In italiano è così, non sei più qui. Inseguo le strade dei nostri incontri, e la luce, e l'aria, il tuo profumo dal nome enigmatico, la complice voce al telefono, il gesto come d'inchino per aprire lo sportello dell'auto. Ti vorrei. Una sera di vento a Zurigo, i gabbiani impazziti sul lago. Ti vorrei. Una notte di pioggia in una mansarda a Saint-Germain. Oppure, mattino d'aprile, sbarcare da un veliero bianco a Creta, il cielo di un fondale di teatro, e poi poter fermare il tempo. Bella. Bella. Vedo la mia cara amica Eva qua, che io ho conosciuto con le trencine corte a 14 anni. L'ho conosciuta nel 13 anni. Era il settembre del 1964. Ok? E erano. Da una settimana non si sapeva dove fosse tuo papà. Ok, sappiamo tutti la storia, però adesso a distanza di tempo possiamo parlarne con i dati di fatto certi. Mm. C'è un certo Christian Kerbler, che era un infiltrato del SIFAR, e suo papà e lui Samplatz pensavano che volesse fare un servizio, un rapporto per la base, insomma, ecco, esatto. E sì, erano venuti dall'Austria ed erano sopra Saltusio, a 2000 metri d'altezza, di Hostess und Brunnwalder, esatto. Io avevo appena finito il militare, quindi ero in forza, perché oltretutto sono stato campione italiano degli 800 metri. Sempre col 3, il 3 di agosto col numero 3 a Bari, 5 giorni, meglio di 3 giorni di licenza premio. E quindi ero in forza fisica e sono andato, e poi parlavo il dialetto. E quindi chiedi di qua, chiedi di là, nei masi, eccetera, alla fine trovo questo stadio, questo fienile, che però era stato chiuso dalle autorità di Bolzano quando c'era l'H, però attraverso c'erano le fessure, io ho filmato in bianco e nero il fieno che c'era lì, eccetera. Cosa succede? Che poi dopo torno giù, vado in un bar dove Christian Kerbler era corso via e tuo papà, pensando che fossero attaccati dagli alpini, non aveva ancora capito che era stato Christian Kerbler, esatto, e suo papà è corso giù, scalzo è scappato, con una palotta che era entrata di qua, uscita, sì, un Steilschuss al labbro, e la terza palotta aveva un difetto, per cui non è, se no sarebbe morto. E lui, che era un grande fumatore di sigaro, ha fatto una prova mentre scappava, ha inalato il fumo, poi ha cercato di spegnere, non ha visto uscire il fumo, quindi ha detto mi salvo, ha capito, perché lui era un cacciatore, no? E morale, io cosa faccio? Vado giù e intervisto gli alpini, dunque, intervisto le due donne del bar, in dialetto tirolese, no? E mi dicono che è venuto giù quel signore e voleva un telefono, lui voleva telefonare il servizio segreto di Bolzano, e quelli gli hanno detto va dagli alpini, gli alpini lo arrestano, chiamano Piazza del Grano Merano, arrivano a prenderlo con una camionetta, e poi gli succede la cosa all'italiana che si capisce adesso com'è: non c'è più, è fuggito, è riuscito, ammanettato con 6 camionette dei carabinieri, e riesce a scappare, l'hanno accompagnato a Tubro e in Svizzera, perché poi l'hanno preso per taccheggio in un magazzino, aveva rubato un dentifricio, una cosa del genere, quindi siamo venuti a saperlo dopo. Io cosa faccio? Filmo anche gli alpini dai quali lui si era rivolto, filmo le due ragazze della Baezelo, però non c'è il sonoro, era un film senza sonoro, no? E poi racconto tutto a Romano Cavini a Merano. Romano Cavini, che veniva a scuola con me, aveva iniziato a fare il giornalista per l'Alto Adige. Cosa fa? Scrive un articolo, e io il giorno dopo, che pubblico questo articolo, mi trovo una macchina bianca, una Giulia bianca targata a Milano, con 3 signori che, con un fare un po' autoritario, lei ha parlato con la signora Klotz, che è vero, perché io ero venuto a parlare con tua mamma e lì ho filmato i tuoi fratelli, i tuoi cugini, tutti i bambini, no? Cosa succede? Che dico, ma voi chi siete? Allora uno si presenta, Morollo, col quale tu sei rimasto in corrispondenza un sacco di anni, una bella persona, che era il fotografo dell'Europeo. Pecorini e Roghi dell'Europeo. Mancava Oriana Fallaci, che stava intervistando a Chabre El Chatila, come si chiamava più, il capo, aiutatemi un attimo, stava intervistando... Non so di chi parli. Il capo di? Di Alfa 3. Vabbè, mi verrà in mente, poi dopo ve lo dico. No. La memoria dopo il Covid fa un po' cilezza. Vero? Mm-hmm. Ok. Morale, io avevo filmato anche sua mamma che era sul balcone, c'era una scaletta, e tu avevi una chiave addosso, così mi hai fatto vedere la cimiglia del papà, perché era Fabio il papà. Quella non l'ho filmata all'interno, ma ho filmato voi ragazzi, Wolfgang, la Judith, la Revestina, eccetera. Ok. Cosa succede? Facciamo un salto adesso. Arrivano questi qua, e io con la mia Simca mi vantavo, no? Seguito dalla Giulia Bianca, li porto a Meltina, a Valti. E c'era tua mamma che col cucca che già guardava, no? Lei pensava che io fosse stato un traditore. Stanzina ferita, dell'europeo, l'europeo è come Spiegel, come Bunte, come Stern, insomma un giornale obiettivo, fanno tante fotografie, eccetera. Morale, mi ha fatto andare su, o si plai Muntner, io sono stato giù e ti ho filmato. Arafat. Ecco. Arafat. Esatto. Grazie, sorello. Ecco, questo è uno degli argomenti, anche questa è una storia. Poi sono riuscito a trovare i filmati di mio zio, che era direttore delle imposte a Brunico nel 1938, quando c'è stata l'inaugurazione del cosiddetto Vashpu, monumento all'alpino, e adesso vi racconto perché si chiama Vashpu. Poi vi svelo quasi tutto il libro. No, ma sono racconti. No, ma è importante, è interessante. Sì, questa è storia, quindi ci sono anche tante cose storiche. Allora, nel 38 io sono riuscito a trovare questi film 16 mm di mio zio e ho tirato fuori i fotogrammi, li ho fatti su li ho dati alla RAI di Bolzano, prima ancora che ci fosse Paolo Mazzucato, al direttore, gli ho regalato, ho detto soltanto segnate dall'archivio di Mario Rusca, di volte che lo usate, e li ho dati a RAI Sipirola anche, no? E quindi ogni tanto li mostrano e segnano sempre, ho visto che lo segnano. E questi filmati qua, da questi filmati io ho preso i fotogrammi, le fotografie sono nel libro, e si vede l'inaugurazione del monumento all'alpino, che era il 6 di giugno del 1938. C'è il principe, era ancora principe, Umberto di Savoia, con la principessa Maria José, poi sono diventati famosi re di maggio, perché sono stati re per un mese soltanto. E poi c'era il colonnello Graziani, quello riconosciuto, infatti sotto le diciture delle fotografie ho segnato anche i nomi. E perché si chiama Vashpu? Questo te lo ricordi quando ci siamo visti dal treno con Grebner, che abbiamo, c'erano le scuole, sei venuta anche tu, eccetera. Hans Marino, ma c'era anche quello storico che purtroppo è morto in un incidente stradale, l'ha tirato sotto. Pochi mesi dopo lui è morto, vicino a Perta. Lui veniva da Lunes. Ha attraversato la strada con tre figli. Günther. Come si chiama? Günther Obex. ci ha raccontato perché si chiamava Vashpu in modo un po' dispregiativo il monumento dell'alpino, che la prima volta è stato tirato giù da uno che io non so chi è, che mi ha dato una sberla da bambino, che io giocavo a rispondere. Sì, era il signor Hirsch, dell'hotel Hirsch, con i suoi pantaloni di cuoio, e noi giocavamo a nasconderci. Io me l'ho nascosto nel primo campo di mais a Brunico, che era nel campo del Wenzel, che era di fronte al comando della Villa Hart. E io me l'ho nascosto lì. Mi sono trovato un cane alto così, che ringhiava. Io avevo terrore dei cani. Oggi sono amico dei cani, sono un cane anch'io. E arriva lui e fa: "They're going on the stone." E io, il Werner Franz, il Georg, il Herbert, il Wolfi Harp, il Norbert Harp, il Willi Harp, il Franz Günther, il figlio del Franz Harp, Günther, Reinhold Gerda, e la tessitura Franz, i Crepa, Zipalua, tutti gli ho detti. Lui mi è andato a casa di ognuno a fare un mazzo così ai genitori, nessuno mi guardava più in faccia, io ho passato l'estate senza poter giocare con i bambini tedeschi, perché ero stato un delatore. Ecco. Sì, a 5 anni. Ecco, ma sono storie anche simpatiche queste, sì. Poi, vabbè. Perché si chiama Vashpu? Ah, sì, grazie. Ah, ho il suggeritore, grazie mille. No, perché sai, sono lì che sto pensando al prossimo argomento. Ok, allora si chiama Vashpu perché lì c'era un signore con pochi soldi che aveva una di quelle ramazze di una volta, no? Lì non era ancora asfaltata, c'era ancora terra, no? E lui puliva così e poi allungava la mano per chiedere un ovolo. E il monumento all'alpino allungava la mano per marciare, no? Ecco perché il Vashpu, in maniera dispregiativa, che poi ha subito 3 attentati. Ma per finire una cosa nostra, ero in Corea, era il 1900 e, era il 2014, E io ho pensato, sono esattamente 50 anni che sono successi questi fatti. E allora io da Seul chiamo lei. Mm-hmm. Dico, Eva, ma per il 50° tu fai qualcosa? Perché lei è entusiasta. Sì, sì, sì, guarda, arrivano anche due dal Perù, dal Perù, da Pozzuzzo, da dove? E lei, come fai a saperlo? No, dico, perché ci sono 10.000 tirolesi, io sono stato là, nella giungla. E poi c'è un altro paese, Colonia del Tovar, in Venezuela, sono stato anche là due volte a mangiare e alla fine mi chiedono se il Sherpa home, nella giungla del Venezuela, ragazzi. Ok. E lei mi dice sì, che organizza qualcosa, che avrà anche tante altre cose nuove da raccontare, difatti lei le raccontate, e io dico, e se ne vengono due dalla Corea? Sì, sì, sì, sì, falli venire, chi sono? JC Wang, come? JC Wang. Scrivi, no, volevo sapere tutte le lettere, 5 minuti a dire le lettere. E l'altro chi è? Mario Rusca. Non è Gauss, metti giù il telefono. E ci siamo visti. E sua sorella, la Barbara, ha aiutato JC, che doveva portare lo statif mio, perché avevo una telecamera grande, ed era morto, è arrivato su uno che vive a Seul, andare su a 2000 metri, potete immaginare, difatti siamo arrivati su ultimi, no? Io. E poi nel film che poi ti ho dato, ti ho detto però lo vieni a prendere a casa mia, mm-hmm. E sei venuta con Hans, okay, con il marito, eravamo in quattro, mia figlia, tu e Hans e io. Le ho dato il film inserendo queste scene dell'allora di lei, tredicenne. No. Sì. Ecco, questa è la nostra amica. Spegni. Grazie. Ho il segretario colonnello Pena Bianca, ragazzi. Poi ne sono successi un po' di tutti i colori, cioè io ho lavorato nella moda, nell'alta moda, guadagnavo bene, spendevo di più, come al solito, ho costruito case. E poi cosa posso dire ancora? Fatemi voi qualche domanda. Ma volevo chiederle, noi abbiamo un proiettore qui, lei voleva farci vedere qualcosa? Certo. Ho portato anche per, se volete dopo magari, ho portato un film che hanno fatto vedere due volte in televisione, Sanze non ti zitta, che è un film quasi muto, ma voi vedete l'Alto Adige del 1600-1700, fratello e sorella che vivono da soli, mai sposati, nessun figlio, un cane, un gatto, due mucche, a 2000 metri di altezza sopra Pine, dove abitava Zoderer, era un carissimo amico mio, è stato lui che mi ha parlato di loro, e io sono andato su subito a fare il film. Sì. Vivevo ancora a Milano, però avevo già la casa dell'unico, per cui questa è una cosa che mi farà ridere. Zoderer un giorno mi fa, la Sandra mi ha buttato fuori di casa. No, cioè, no, ma solo un mese, sai, devo finire il libro di Farm de Graus am Kalk, i colori della crudeltà. Sì, della crudeltà. E a me piaceva come scriveva, perché Di Vasche è stato fantastico, poi ha scritto per Hein de Vasche anche, no? I primi due libri forse i più belli in assoluto, secondo me. Comunque gli altri sono molto più profondi. E quindi il mese sono diventati 3 anni e mezzo. Poi ha litigato con mia figlia, lui è nato il 25 di novembre, mia figlia è nata il 25 di novembre, mia figlia l'ha buttata fuori perché veniva per una settimana in vacanza. Lei viveva a Dublino, insegnava inglese al Trinity College, un italiano che insegna inglese, adesso lo fa a Brunico perché sono in Bozzano. E a questo punto io sono di nuovo lì entrato in possesso del mio appartamento, ma siamo rimasti molto buoni amici, assolutamente. Lui ha capito, perché poi però ha fatto una cosa, è andato in comune, ha detto mi hanno sloggiato da casa, come se lui pagasse, lui non ha mai pagato una lira, anzi mi ha fatto fuori tutta la cantina dei vini. Vabbè, l'abbiamo fatta fuori insieme anche. Ecco, mi stava dicendo. Vogliamo vedere questo, ma quanto dura? Hansel zitta, glielo dico subito. Durerà un 50 minuti però, Possiamo vedere un pezzettino, un inizio? Dai. 52 minuti. Ma lo vendono questo film? Ve lo posso vendere io ne ho delle copie a casa, non so, 10 euro, posso dare a chiunque lo vuole, me lo dice stasera. Sì. Devo cercare di recuperare quello che ho speso io, è solo quello. Sì, va bene. Non siamo qua per far business. Comunque, fai vedere l'inizio. Sì, esatto. Quindi partiamo con questo. Ci saranno forse solo 3 parole in tutto in questo film, 2, alla fine del film. Vi ho scritto, io sono cinese, non vado a home, è figlio di cinese. Tu pensi, no? allora mi siedo qua. Così? Anch'io. E le videopoesie sono tutte brevi, massimo un minuto, così avete un attimo un'idea, perché ho fatto un libro, ve lo faccio vedere. Qua, qua. Aspetta, no, uno, due. Mm-hmm. Allora, questi sono due libri di videopoesie, qui ci sono CD e DVD, e sono musicate e la voce è la mia, qui, ok? E sono parecchie. E queste invece sono poesie d'amore, il frullo della libellula, e mi sono fatto filmare da Manny Unterpertinger, che lavora per la televisione, ed è girato tutto nel castello di Carlo Marcati, per cui potete vedere un castello privato, la Michelsburg, esatto, e ogni poesia ha una fotografia di un famoso fotografo, ma fotografia così, per esempio, così, guardate, è così. E questi libri qua, metà del prezzo, quindi vuole avere 15 euro, Forse. Costa 33 euro di questo, tutti a più. E poi, ok, spegniamo le luci. Anni dopo, stessa posizione. plastica. Una volta all'anno lui scendeva in città, solo una volta all'anno. Lei mai. E io qui abitavo ancora a Milano, sono venuto su sei volte sono riuscito a fare il film. C'aveva il falco che era un amico, lo chiamava per nome, no. Sì, però aveva paura per le galline. Lui la gobba, la gallina mezza storta. Eccolo. Salvato. Cosa è successo? Questo signore era un lontano parente, ha ereditato tutto lui. Del metodo? Sì, sì. Metodico poi. E lui scopre la modernità. Sì. Spiega, dottore. Talmente amici, ogni tanto passavano dei turisti, no? Che chiedevano se potevano prendere un po' di latte, eccetera. Raga, zitto, sto filmo! Rinunciava a prendere dei soldi pur di fare il film. Io avevo le ore contate, stavo su solo un giorno e poi andavo via. poi pieno di ragnatele. Quando gli ho fatto vedere il film faccio, ma quante ragnatele, sì, ma meno mosche. Sì. Le ragnatele le lasciava, Dio, non le rompeva. Sì, sì, giusto. I ragni sono preziosi. Dio. Buttano via niente, adesso guardate, si vedrà una sedia rotta, la tavola è ancora lì. E poi ho scoperto perché il colore blu, perché scaccia le mosche il colore blu, me l'ha detto lui, l'aveva detto. Ci fermiamo qua, intanto apprezziamo le immagini e la capacità, veramente. Alla fine c'è la scena del funerale che sì. è la madre del film. Proprio funerale del vecchio. Allora cerchiamo magari. Io vi racconto un attimo, io praticamente ho chiesto il permesso, perché io ho tenuto, l'ho visitata ancora, lui, la sua agonia è durata 2 settimane, io venivo su, andavo giù, venivo su, venivo giù, e poi quando lui è morto è stata una roba, perché abbiamo dovuto metterlo nella bara, alzare la bara che non usciva dalla porta, farla andare giù dalla finestra, eravamo in 5-6, abbiamo veramente faticato, e poi ho detto alla zitta, tu mi permetterai, io finisco il film in maniera molto molto delicata, lei mi ha detto tu puoi fare quello che vuoi, e io, sì, e io ho continuato a correre, avanti e indietro. Riusciamo a vederla questa scena? Sì, l'ultima parte. L'ultima parte. Quindi la 4. E quindi ho fatto delle scene riprese da lontano, delle scene molto, molto incisive. E c'è la scena finale, vale tutto il film. Quando sei pronto? Es braucht mir jedes Mal. Forse uno più in su però. La penina. Il terzo? Vediamo, te lo dico subito. Appena dico. No, più in su ancora, più in su ancora, molto più in su. Vai su 4 o 5 allora. No, aspetta, qui sta tornando a casa. Va in città e vede una città che lo spaventa. No, questa. Vai più avanti. Sì. Si spaventa della città? Cos'è che sì, si spaventa. Non è più. Una volta l'anno che stavano. Lascio un attimo solo. Queste scene lui non le ha viste, io l'ho portato giù dopo, io avevo già filmato questo e lì gli ho detto di fare. Facevo così, io allora mi sentivo a ridere. Ma lui questa non le ha viste. È tutto un contatto. torna a casa e si nota che incomincia già a cambiare, ho fatto di proposito, con l'elettricità, i mezzi, lui è abituato alla sense e vede queste cose qua, per far vedere il passare del tempo. Lui in pratica adesso torna a casa dopo aver visto tutto quello che era brunico, ok? E ci sono le uniche parole del film, sue e di lei. E adesso ci sono delle scene che sono l'allegoria della vita, la fine della vita. I rumori sono autentici, eh? Guardate sta scena, ci ho messo un giorno quasi solo per questa scena qua. No. A inquadrarla giusta. Dai, che bello. Dov'è che è questo? È sopra Pine, sopra Terrington, in su ancora. Terrington Pine. C'è una specie di bar, trattoria piccola della Marianne e del Tondo e sono lì vicino. Ecco, adesso vedrete questa scena. Io a correre su e giù per i boschi da lontano a filmare. Non c'è prete. Alla fine siamo partiti in otto, alla fine c'erano un migliaio di persone, uscivano dalle case e si univano a noi. Su un carretto che cigola. Adesso vi faccio vedere, si vede anche Zoderer, attenzione. Vediamo un attimo dov'è. Ha il cappello in mano che lo dondola così. Sì, non l'abbiamo capito. Don't strike the thing. Il cappello. Sì. Che immagine che questa però. Ecco, vedi questa scena qua e poi dopo correre avanti per riprenderli qui. Il cigolio della bara. Wie viel Kilometer? Sì, 4 o 5 km. Infatti. Ecco Zoderer, lo vedi col cappello? Io, sì, ecco la vedo. Ecco, questa è una scena. Ma l'ho visto senza cappello? Che c'era sempre in testa. Cioè, io qui ho dovuto calcolare tutto, non erano ancora arrivati, ho inquadrato, ho detto qui vedrò la minetto in modo tale che l'ombra mi vada così. Bello. E sono riuscito a prenderla. E da ogni casa viene fuori la gente e si unisce al corteo e non ci sono, e ci sono tre preti che aspettano giù alla chiesa, tre, ma nessuno ha avuto solo. E la zitta. i due accanto sono parenti lontani che poi hanno preso tutto. Ma è rimasta da sola nel mazzo? Sì, poi c'è tutta una storia della zitta, perché io ne sono stato dietro fino alla fine. Sempre. Ci credo. La zitta praticamente io un giorno arrivo e loro non chiudevano mai, puoi fermare questa zitta, loro non chiudevano mai la casa, no? Io entravo e non trovo nessuno. Allora vado dalla Marianne e dico, ma e la zitta l'hanno portata via. Oh. E l'hanno portata a San Martino, Valdavia, no? Allora io sono andato su a trovarla e lei mi si è messa a piangere. Che non capiva la lingua, che nessuno l'andava a trovare, perché i suoi amici vecchi, nessuno andava fino a San Martino. Ho fatto di tutto, ho parlato con Christian Occidentale, ho parlato con, insomma, adesso non mi vengono in mente i nomi, ma comunque persone importanti. Alla fine sono riuscita a farla venire a Brunico, quindi c'era la mamma del Goetz che andava a trovarla un giorno sì e un giorno no. Io che quando venivo su andavo a trovarla, la portavo fuori a Riscone a mangiare un gelato, perché piaceva moltissimo il gelato. Insomma, poi io ho un filmato, l'ho filmato, perché mi ha chiamato mio padre Valentin e mi fa, era in ospedale e stava morendo. Perché erano 5 giorni e non aveva più mangiato, voleva morire lei. E io ho cercato di convincerla, fa nai, e la sera prima che morisse, io sono stato lì, ho detto, senti, allora facciamo una cosa, fammi una cortesia, io ti filmo e tu saluti le persone alle quali tu vuoi bene, e io ce l'ho per fine. Poi ho dato il numero di telefono all'infermiera e l'ho detto, mi avvisi, perché non hanno parenti, l'unico che li conosce sono io, e mi hanno telefonato alle 2:30 del mattino. Sono andato là, non me la lasciavano vedere. Allora sono tornato la mattina, ho forzato un po' la mano, c'era uno giù nelle cantine, no? Giù dove li mettono, e gli ho raccontato che avevo fatto il film, che qui, che là. Allora mi ha permesso di entrare, io ho portato solo una rosa, aveva ancora gli occhi aperti e li ho messi nella mano. Finita così. Parliamo di cose più allegre? Ci avviamo verso la conclusione, sì. No, perché vi faccio vedere magari 2 o 3 poesie brevi. Sì, che sono nel libro. Allora, queste poesie che vedrete adesso sono in questo libro qua. Qui ci sono tutte le poesie. E queste sono invece solo le poesie d'amore nel castello, eccetera. Dove io sono l'interprete in ogni stanza del castello, prima fuori nella neve e poi è fatte in maniera molto professionale questa, perché la fate alla televisione. No, ma siccome non sono tante, queste le possiamo vedere tutte. Che ora è? Tardi. Quanto tempo abbiamo? Ma noi verso le 19 chiudiamo, anche perché... Ok, allora. Vai, magari parti dalla... dalla terza, dalla quarta. Sì. Così. Scusami, sì. Brevissima, proprio 2 righe. Una scena che... Come? In Puglia. Ah. Ho trovato quella sedia che era lì così e mi ha ispirato la sedia. L'altro è un amico mio che è un professore di violoncello e mi si è prestato a fare la scena per far vedere la figura umana nel quadro. Mm-hmm. Ma la sedia era così, non l'ho messa in piedi io. Chissà che burrasca. Sì. Deve essere stata per arrivare addirittura una sedia. Chissà da dove arrivava poi. Brevissimi, lunghi segmenti del vivere. Lunghissimi, brevi segmenti del morire. Si elide nella somma la vita. Nei tuoi giardini di giugno, bambina, ho colto le stelle di smeraldi lontani. Ho letto nascosti dolori di antiche delusioni, rinate speranze di amori da offrire. Ha vibrato di nuovo quel diapason spento, ha cantato, ansimando, una gioia sopita. Ricerca il tuo, l'universo del mio io, fragile, nei suoi equilibri, annulla spazi e tempi, con quello tuo si completa e si rinforza di vigori nuovi, di entusiasmi giovanili, dimentico del resto che ha servito alle banali quotidianità, solo scorre per sfogliare il calendario della vita. Sei partita e sei qui, sei l'assente presente dei miei pensieri. Ti attendo all'incrocio dei nostri cammini. N'importe, n'importe. Quando nei miei occhi passi finiranno, come regale a Ierone si involerà il dolore. E allora, lento, un cuore impolverato conterà le ore. Bene, bene. Ecco, queste poesie si trovano nel Caddero parole dal tempo. C'è l'idea, no? Caddero le parole dal tempo. Comunque è un uomo poliedrico. Sarà un dato nascosto, Mario. Adesso so già che ieri. Che oltre ad essere un grande scrittore, poesie, racconti, filmati, è anche un ottimo barzellettiere. allora mi hai preso proprio, no? Ok. Questa quante volte me l'hai fatta raccontare? Non finirò mai perché è quella lì che vuoi, è troppo reale. Allora parleremo in Veneto, ok? Che Veneto già un diretto. Poi chiama la direttrice, no? Signora Trevisan, sì. Sì, no, stavamo facendo le frutole ai libri per ordinare. Sì. Allora, anche i gatti vanno in vacanza. E che se il gatto deve venirsi a che se fionda sul albero, ostia. E la mattina lì che passeggia e vede un topon così da una pantegana che attraversa la strada. Che bravi che sei tutti i nostri che ti offrono la colazione per strada. E rizza la coa, pronto per saltare addosso, poi si blocca, perché dall'alto nato c'è il gatto del Dornwalder. E spaupetta quattro sulla spalla sinistra. A qualunque recce i baffi a coa. E il gatto venisse ostra, mi sono foresto, sono qua in vacanza. Stiamo a vedere lo che fa il gatto locale. E il gatto del Dornwalder incomincia ad abbaiare. Il topo sente abbaiare e prosegue tranquillo, no? E dice quello, se lo mangia. Scusi, madonna, il gatto di Venezia rimane letteralmente di cacca. Si avvicina che sbatte la zampina lì sulla spaupetta. Sai che poi a me vengono da Venezia, sono qua in vacanza un paio di giorni. Che è una cosa che non capisco bene, ma noi altri gatti miagolemo, non abbaiamo mica. E come se è la storia, contami ciò. E quell'altro, ah, guarda, qui da noi in alto, Attice, se non parli due lingue non mangi mica, sai? Che forte questa! Abbiamo un centro multilingue anche. Va bene. No, ma facciamo un film sulle barzellette. Ecco. Sì, dai. Te l'ho proposto. Sì, no, hai ragione. Potrebbe essere una hit questa del film. No, fate i reel su Facebook. Sì. Quanto dura la barzelletta? Questa gira già su Facebook. Sì, su Facebook ne ho messo un 18, mi sembra. No? Ma ce n'è un'altra, per esempio. Questa la possiamo raccontare. C'è un medico di nuova nomina che si è messo su un suo studiolo a Preale, vicino a Verona, nella campagna proprio, no? Siamo di nuovo in Veneto. E siccome è la prima armi ha fatto una panca a U, poi la tendina al lettino, sta visitando una signora, no? Dammi il telefono, mi serve un telefono. Allora, sta visitando una signora. E a un certo punto, mentre sta visitando, gli arriva la telefonata. Mi scusi signora, mi scusi un attimo solo, sì. Pronto? Pronto. Pronto, chi parla? Con la signora Teresa. Teresa? Ti hanno tante Terese, sono medica mutua. Ma sì, dottore, sei stata lui la settimana scorsa. Come? La settimana scorsa. Sì, ho capito, per che cosa? Ecco, ho fatto la cura degli ormoni. Ah, sì, mi ricordo, mi dica, e allora? E non la senti sta voce? Sì, la sento la voce. Prenda del fornitrol, uno spray, adesso sto visitando, la saluto. Dottor, col corpo pieno di pei. Oh, signora, corpo pieno di pei, ma usi la ceretta da noi, suo marito. Guardi, non ho tempo adesso. Dottor, non capisco un caso. Voi pei che mi arrivano fin sotto i coglioni, ossia. Secondo me hanno avuto torto quelli che questa sera non sono venuti. Esatto, però lo risentono sul... Devi scrivere un altro libro così torni. Ecco. Devi scrivere un altro libro così torni. No, facciamo le barzellette, film delle barzellette, sì. Guarda. Quello incontra senz'altro. Anche una serata. Una serata. Di ambientazione locale. Sì. Io quando io andavo a New York c'erano i miei stilisti con i quali lavoravo in alta moda, avevo una barzelletta in inglese, ma l'avrò raccontata mille volte, ogni volta, Mario, before you open your bags, e Italian who went to Toronto. Allora raccontavo la storia di un italiano che è andato a Toronto. Ok, io vi ringrazio moltissimo. Grazie, grazie a lei. Mi sono divertito anch'io, mi sono divertito anch'io. Oh, bene, dai, la cosa, sono la cosa più interessante è che la direttrice del Trevi si chiama Trevisan. Trevisan. Sì, che Claudio Trevi era Trevisan. Comincia a perdere colpi, che non noti queste cose. È stato il Covid, guarda. Come gli antenati? Allora, noi scappiamo. Sì, no, Renzo, no, allora, grazie. Dobbiamo andare domani. Domani grazie, andiamo a Mestre. L'altra mia nonna invece veniva dalla Val Prusteria. Ciao. Arrivederci. Insomma, abbiamo avuto le due nonne che si sono sposate con gli italiani. Le nonne vostre. Così? Sì. No, sentiamoci allora. Sì, volentieri, se devo spegnere questa cosa. Ah, fatto, grazie. Il mio biglietto te lo lasciate? No? Sì, sì, ma me lo lascia un altro che così lo tengo lì anche nel mio cellulare. Grazie. Perché noi vogliamo adesso anche a comprare di nuovo altre copie di quei libri, ma dobbiamo farlo col fornitore, perché quello è il problema. No, ti ringrazio. Tenga presente anche a voi il prezzo, non quello di copertina. Sì. Allora, grazie. Questo. Non dire che